Sono danni quando vedo in giro troppa figa. Non canto, non rappo, non ballo, vado alla corrida. Tutti i miei amici sì, sono divisi. I miei amici sono coincisi e decisi. Matrimonio e carriera, troppi sacrifici. Io dormo scopo senza uno scopo. Piacere al mio scroto, l'alito che sputa fuoco. Sarà con me non gioco, prometti lavoro ma non voto. Curriculum è troppo vuoto, nessuno lavora in loco. Voglio buttarmi dal burrone con la tua moto. Quale carriera, canto in una balera. Muoio il giorno stesso come fossi una falena. Niente soldi nel lavoro, dammi l'antidepressivo. Sogno contratti a progetto, quale fare il vivo. Non mi merita, io non merito lei. Salam Bombay, Bombay Salam. Devi avere pazienza a restare qua. Pochi sanno fare veramente i soldi. Molti li hanno perché figli, figli dei pochi. Io come te, figlio dei tanti. Non seguo una stella, seguo i contanti. Ora ho lo space, mi sento un artista. Faccio dissing per poter fare il qualunquista. Per il rap ho il contratto da apprendista. Faccio per passione, sono una rivista. Salam Bombay, Bombay Sala. Mi sa che se lo sfondo è lo sfondo che si oscurerà. Non insulto la mafia come fa Moro. Magari loro mi daranno un giorno lavoro. Vado in giro e vedo i vostri figli ancora tristi. Con le pezze al culo e troppi cuori a pezzi. Bombay non mi vendo, fate i vostri prezzi. Mi assalto solamente con i vostri fischi. Yeah.